Capitolo 5. La tesi di specializzazione. A. Gli articoli. 1. Ascolta e leggi il messaggio in segreteria telefonica e le email. Ciao, ho trovato gli articoli che mi hai chiesto. Te li do volentieri. Oggi sono sempre impegnata perché sono di turno e devo sostituire una collega. Purtroppo ho lasciato il mio cellulare a casa, quindi non potrai chiamarmi. Vorrei sapere quando possiamo vederci. Potresti mandarmi un'email? Aspetto di sapere quando possiamo incontrarci. Ciao. Ciao Marina. Grazie per avermi chiamato. Non vedo l'ora di leggere quegli articoli. Mi saranno molto utili. Sto finendo di scrivere la mia tesi di specializzazione e inserirei nella bibliografia anche quegli studi. Avrei tempo oggi pomeriggio, ma mi sembra di capire che per te non va bene. Potremmo incontrarci domani pomeriggio? Mi farebbe piacere dare un'occhiata con te agli articoli e farti alcune domande. Tu sei un'esperta in questo settore. Accetteresti un invito a pranzo domani? Dopo pranzo potrei chiederti qualche consiglio. Se per te va bene, passo a prenderti in ospedale verso le 13. Grazie di tutto, Lia. Ciao Lia. Sarei davvero felice di pranzare con te, ma domani il mio turno finisce alle 14:30. Dopo verrei da te in macchina. Ho bisogno solo del tempo per togliermi il camice e cambiarmi. Se non c'è traffico, arrivo da te in un quarto d'ora. Sono contenta di sapere che mi consideri un'esperta, però direi che esageri. Non credo che i miei colleghi e i miei superiori sarebbero d'accordo. Allora, se non ci saranno urgenze, a domani pomeriggio. Marina. Va bene, Marina. Grazie e a domani. Lia.